Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Domenica è sempre domenica, buona domenica a tutti dall'Expo di Milano. Ebbene, siamo qui nel padiglione Cibo 6 Italia e ovviamente parleremo di cibo, parleremo di Made in Italy. Ebbene, abbiamo con noi, cominciamo con il presidente della Confagricoltura, Mario Guidi. Buongiorno Guidi. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno a un amico, Enrico Brivio, portavoce della Commissione dell'Unione Europea da Bruxelles. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno Davide. Buongiorno. E allora, oggi parleremo di quello che è uscito sui giornali ultimamente, sembrando un bombardamento: formaggi senza latte, carne annacquata, cioccolato senza cacao. Bene, sembra che, diciamo, sia veramente un bollettino di guerra. Allora, bisognerebbe fare anche un po' di, come posso dire, di correzione, un po' a tanto barlume che viene fatto su alcuni argomenti. Tra l'altro, appena iniziato, io ho quattro mail sul mio sito Gastronauta che mandano così improperi all'Unione Europea, dicono gli italiani mandano solo gente poco preparata. Ma insomma, cominciamo però dall'ultimo argomento, quello che è apparso con grande evidenza, questo formaggi senza latte. Allora voglio chiedere a Mario Guidi, presidente della Confagricoltura, come giudica questo ultimo provvedimento, Guidi? Beh, non è ancora in realtà un provvedimento vero e proprio. La Commissione europea ha avviato una procedura di verifica nei confronti di una vecchia legge italiana, credo che risalga agli anni 80, che fa divieto di produrre, ma non solo, di detenere nell'industria alimentare del latte che sia in polvere. Questo nasce in un momento storico particolare, ma ha ancora la sua efficacia nel proteggere la qualità dei nostri prodotti e dei nostri formaggi. All'esito di questa verifica la Comunità Europea dovrà esprimersi se aprire una procedura di infrazione o meno nei confronti dell'Italia. Io sostengo che noi abbiamo tutti gli elementi per controbattere o per cercare un elemento, insomma, di forse anche di mediazione che ci consenta di continuare come italiani a produrre formaggio solo con il latte liquido, come lo conosciamo noi e come lo vogliamo fare, per distinguere i nostri prodotti proprio magari da altri paesi europei che hanno abitudini e modalità diverse. Enrico, mi sembra che sia il 24 luglio questo incontro tra i rappresentanti della Commissione e del Ministero dell'Agricoltura, quindi ancora non è in vigore questo provvedimento. No, si tratta di una legge che dovrebbe essere operativa in tutta Europa, cioè non ci dovrebbe essere il divieto di utilizzare a priori di utilizzare latte in polvere per il formaggio. È questa legge italiana del 1974 che proibiva, appunto, come giustamente ha detto lui, alle compagnie casearie di immagazzinare o vendere o latte in polvere. Forse deve chiarire una cosa, comunque, che quando è stata mandata questa lettera di messa in mora da parte della Commissione in maggio, ho visto poi, diciamo, perdono il gioco di parole, un po' di bufale mediatiche, nel senso che si è detto la mozzarella di bufala fatta con latte in polvere, il parmigiano, che orrore. Ecco, chiariamo una cosa, questo tipo di provvedimento non toccherebbe assolutamente prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta e specialità tradizionali garantite, cioè i famosi DOP, IGP, SPG, che vengono fatti con discipline di produzione molto specifico e che non potrebbero mai essere fatti con il latte in polvere. Ecco Enrico, ti richiamiamo perché noi abbiamo una ricezione molto, molto pessima quindi ti richiamiamo, scusami, ma ti richiamiamo. Comunque mi sembra che sia chiaro questo che ha detto Brivio, e secondo me era da precisare che a rischio ci sono solamente i prodotti non DOP e non IGP, però c'è sempre lo stracchino, la mozzarella e la caciotta, vero Guidi? È correttissimo, intanto è giusto rassicurare il consumatore che non è cambiato niente rispetto a quelle che sono le nostre abitudini le nostre garanzie e anche l'abitudine della nostra industria agroalimentare. Oggi è avviato un processo di verifica sull'armonizzazione della legge europea con quella italiana, che è più difensiva. Ma da lì a dire che i prodotti che sono in commercio non sono fatti con la norma, diciamo, della legge italiana o che non so, ce ne passa. Quindi vorrei sicuramente rassicurare il consumatore. Certo, noi dobbiamo difendere i nostri prodotti, il nostro modo di produrre, e quindi ci aspettiamo tutti e siamo tutti di supporto al Ministero dell'Agricoltura affinché possa rispondere in maniera corretta e affinché la comunità europea si renda conto che è vero che siamo tutti europei, ma ogni paese ha le sue modalità, anche le sue modalità di promozione dei propri prodotti. L'Italia è un paese che si vuole candidare nel sistema di servizi ai consumatori a livello europeo e mondiale in maniera diversa forse rispetto ad altri paesi, e noi intendiamo tutelare la nostra qualità anche attraverso delle norme che ci consentono di farlo. Dopodiché, Prego. No, volevo chiedere se... Vada. No, dopodiché voglio dire, io mi sono convinto in questi anni, diciamo così, in cui queste diatribe ogni tanto riemergono, che noi dobbiamo investire di più nella promozione della qualità italiana, dobbiamo comunicare di più, anche il Ministero dell'Agricoltura, potremmo proporre al Ministro Martina di fare una vera e propria campagna di comunicazione, perché vede, in un ambito europeo in cui altri paesi o altre industrie intendono comportarsi in maniera diversa, forse c'è proprio uno spazio in più per la qualità dei prodotti italiani fatti in un certo modo, e allora l'unico che ci può premiare è il mercato, ma se il mercato non lo sa, se il mercato non è convinto, e quindi dobbiamo lavorare di più in questa direzione. Volevo chiederle, le stavo chiedendo se servirà qualcosa questo altro marchio che è nato, questo marchio Italian Taste che è stato varato recentemente, ma serviranno questi marchi? Beh, questo marchio, che non è un marchio di prodotto, mi pare di capire, ma è un marchio che raccoglie nelle esposizioni i prodotti italiani, può aiutare a fare proprio quello che dicevo prima, cioè a fare una maggiore promozione anche istituzionale della qualità, perché oggi l'agricoltura italiana viene raccontata spesso male, va più, diciamo così, fa più notizia quando ci sono delle poche e rare episodi di frode o di mala gestione delle questioni agricole. Io penso però che noi possiamo puntare, invece dovremmo ragionare su un marchio 100% italiano, proprio scritto così, 100% italiano. Dovrei spiegare un attimo perché, se è possibile. Sì, rimanga in linea con noi, dobbiamo passare la linea alla regia per le indicazioni sulle strade italiane, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo dall'Expo, stiamo trasmettendo, stiamo parlando appunto di Made in Italy, di queste disposizioni che ogni tanto arrivano a colpirci dall'Unione Europea, oppure presunti colpi che poi vedremo. Ma Guidi, lei può chiudere, può finire quindi se il discorso che stava facendo sul marchio. Sì, perché sono anni che noi discutiamo di che cosa marchiare col Made in Italy oppure no, e la discussione fa riferimento al fatto che possiamo dire che non è Made in Italy una nota marca di caffè o la cioccolata o la pasta, possiamo dire che non sono Made in Italy? Io direi che non possiamo. Però certamente potremmo promuovere di più quello che è fatto con prodotti italiani dalla terra alla tavola, per così dire. Quindi un marchio 100% italiano, un marchio volontaristico, un marchio su cui fare veramente promozione, potrebbe farci collocare i nostri prodotti nelle fasce di mercato più coerenti con questa particolarità. Ecco, grazie Guidi. Dovremmo avere anche in linea Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti, a cui voglio leggere questa SMS. Se viene usato latte in polvere lo si mette in etichetta, così sarà il consumatore a decidere. Lei cosa ne pensa, Moncalvo? Questo sarebbe il minimo, ma qui stiamo parlando di qualcosa di più grave. Qua, mettendo in discussione una legge del 74, cioè di 41 anni fa, mettiamo tutto il sistema di qualità e di distintività dei nostri formaggi. Ed è un ragionamento che va ben al di là ovviamente delle DOP e dei IGP, ma riguarda latte alimentare, riguarda yogurt, riguarda formaggi che potrebbero, se questo tipo di sfida venisse portata avanti, essere messi in discussione. Quindi stracchino, mozzarella e cacciotta. Questo è qualcosa che va oltre il tema dell'etichettatura, che è e rimane un obiettivo fondamentale. Noi ricordiamoci che esiste il problema dell'origine del latte, esiste il problema delle cariache utilizzate al posto del latte, quindi un'operazione di trasparenza quella non fa, non sarà mai troppo tardi. Abbiamo con noi Moncalvo il portavoce della Commissione dell'Unione Europea, Enrico Brivio, che prima ci spiegava che appunto sarà a decidere questa riunione del 24 luglio. Siccome si sentiva male, Enrico, ci puoi ripetere cosa succederà? Diciamo che la posizione della Commissione è la stessa che è stata espressa dall'SMS del vostro ascoltatore, cioè esiste comunque una legge, una direttiva europea che permette l'uso del latte in polvere per delle forme di formaggio generico, quindi sarà poi al consumatore decidere, quando, una volta che gli si pone chiaramente fatto con prodotto con latte, non contiene latte in polvere o contiene latte in polvere, potrà scegliere benissimo il formaggio che più preferisce. E ripetevo che questa situazione non si applica ai prodotti DOP, GP e SG, cioè denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta, specialità tradizionale, quindi non si applica ovviamente questo discorso alla mozzarella di bufala campana, al parmigiano reggiano, come alcuni hanno scritto. Ricordiamo che è proprio l'Europa che protegge con questi marchi 274 prodotti alimentari, tu spesso ne parli nella tua trasmissione, 603 vini, 38 alcolici, e che l'Italia è il paese più protetto con il più alto numero di indicazioni geografiche protette. Quindi quando si parla dell'Europa bisogna anche tener conto di questo effetto che l'Europa ha sul Made in Italy, che è un effetto anche di diffusione, e io direi che anche questa norma, se si va all'etichettatura, in realtà farà emergere le eccellenze, perché il consumatore se trova uno yogurt magari di importazione con scritto prodotto con latte in polvere ci penserà e vedrà cosa scegliere, insomma. Ma non si deve avere paura di questo, dell'etichettatura che il consumatore sia lui a scegliere. Moncalvo, secondo lei a chi va il vantaggio di questo provvedimento? Pronto, Moncalvo? Deve essere caduta la linea. Bene, abbiamo con noi comunque anche il direttore dell'Assolatte, Massimo Forino. Buongiorno, dottor Forino. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ecco, voi siete, diciamo, abbastanza colpiti da questa disposizione comunitaria, se il 27 luglio, diciamo, sarà, 24 luglio sarà confermata. Cosa ne pensate? Ma guardi, dottor Paolini, prima volevo andare nella direzione che ha seguito anche il dottor Brivio per un chiarimento, visto che si parla da due settimane di formaggi senza latte. I formaggi senza latte non si possono fare, dal punto di vista tecnico, non convengono dal punto di vista economico e sono vietati a livello europeo perché l'Europa dice che i formaggi si fanno con il latte. Questo è un chiarimento che secondo me ai consumatori va fatto, perché il quadro che è stato presentato è un po' molto forte, un po' eccessivo. Sono d'accordo con Brivio, il dottor Brivio, quando dice che è il caso di fare una verifica della normativa italiana. Lei è al padiglione Cibus, ho sentito, trasmette da lì. Se lei fa una passeggiata al pian terreno, vede quali sono i marchi del lattiero caseario italiano. Bene, le aziende che lei vede esposte sono le nostre socie, sono quelle che hanno fatto grande il Made in Italy nel mondo, sono le aziende che sono più capaci di fare qualità sicuramente in tutto il mondo, con poche paure di essere smentite. Quelle aziende competono da 40 anni con gli altri paesi con una normativa che non gli consente di competere. Allora, quello che noi chiediamo è di avere le stesse regole che si usano in Europa per continuare a fare qualità, la qualità che conosciamo e la qualità che abbiamo portato in tutto il mondo. Beh, io torno a Moncalvo, che prima era caduta la linea, gli voglio rifare la domanda che è andata persa. Moncalvo, le volevo chiedere, secondo lei perché questo nuovo provvedimento, a chi va a vantaggio? Chi è che si avvantaggia eventualmente di questo provvedimento, appunto, che va a colpire, cioè, lo stracchino, la mozzarella e la caciotta di fatto anche? Beh, qua stiamo parlando evidentemente di quel pezzo di industria italiana che peraltro ha stimolato la Commissione a fare questo tipo di analisi. È quel pezzo di industria che si è avvantaggiata in questi 40 anni grazie al fatto che la nostra qualità dei formaggi, che figlia anche del fatto che si utilizza latte fresco, è più alta e permette di essere riconosciuti meglio e di avere quel Made in Italy che tutto il mondo apprezza. E oggi, per provare a guadagnare ancora di più a alle spalle dei produttori e dei consumatori, propongono questo tipo di azione che veramente danneggia in primis i consumatori e subito dopo i produttori agricoli, che già nell'ultimo anno hanno visto un calo del prezzo del latte del 20%, mentre i consumatori non si sono assolutamente accorti di nulla. E Moncalvo, le volevo chiedere anche questo: ho visto nelle sue ultime dichiarazioni che non parlava solamente di formaggi senza latte, ma anche di carne annacquata, cioè perché mi sembra che riguardino i salumi, cioè che si può oltrepassare quel 5% che era stato dato come limite, se non erro. Noi abbiamo bisogno di un sistema di regole che garantisca la distintività e la qualità delle nostre produzioni. Qualsiasi regola che standardizza la qualità verso il basso, che riguardi i formaggi, che riguardi i salumi, che riguardi qualsiasi altro prodotto, ci danneggia. Noi siamo un paese piccolo che vince per la qualità e la distintività delle nostre produzioni e non sui grandi numeri e su prodotti standardizzati e di bassa qualità. Bene, ringrazio Moncalvo, voglio tornare a Brivio, voglio tornare un secondo a Enrico. Enrico, io qui ho veramente tanti insulti a Bruxelles, tanti insulti ai dirigenti italiani che sono a Bruxelles, che non sanno difendere diciamo i diritti italiani. Lo so che tu sei parte in causa, per cui, ma come mai c'è questo, diciamo, c'è questa reazione italiana di fronte ai provvedimenti? Sì, certo, ce ne sono alcuni veramente che non difendono il made in Italy, però mi sembra che sia veramente una cosa che sta crescendo giorno per giorno. Colpa dell'informazione? Ma no, adesso io non, dopo essere stato per anni giornalista, non posso dare colpa solo all'informazione, però è vero che purtroppo è diventato un po' di moda attaccare l'Europa e farne un po' il capro espiatorio. Secondo me, perché alla fin fine in Europa è vero che c'è uno scontro, questo non si può non negarlo, a volte tra un certo tipo di coscienza del cibo, del suo valore tradizionale rispetto a una cultura nordica che ha una visione del cibo un po' diverso, però tutte queste decisioni vengono poi prese da consigli europei dove il ministro italiano è presente, da Europarlamento dove la rappresentanza italiana c'è, quindi la voce italiana c'è. A volte si è mancato di fare forse le alleanze dovute, di far valere la propria voce, ma non sono solo il prodotto di un oscuro gruppo di burocrati impazziti, come a volte sembra leggendo i media italiani. Come ho detto, su questa questione del formaggio c'è anche da dire che appunto non riguarderà i prodotti di origine garantita, non gli OGP, non i DOP, non gli SDG, e tutto quello che in Europa si sta facendo adesso per proteggere la qualità, per proteggere i marchi italiani nei negoziati con paesi stranieri, laddove vengono utilizzati, come sappiamo, dal parmigianino prodotti in Argentina, negli Stati Uniti. L'Europa è anche impegnata a difendere la qualità sia all'esterno, nei confronti di paesi terzi, sia all'interno, anche nei confronti del consumatore. Tu, per esempio, le norme sull'etichettatura che sono entrate in dicembre, ne hai parlato nelle tue trasmissioni, per proteggere dalle allergie ai consumatori, per dare più indicazioni d'origine su certi tipi di carne. Insomma, mi sembra che ci sia uno sforzo che viene fatto, che tra l'altro viene un po' banalizzato dai media, anche perché è comodo dare colpa all'Europa di cose che magari colpa dell'Europa non sono. Certo, non ha colpa l'Europa di questi tarocchi formaggi scoperti addirittura qui all'Expo nel padiglione della Russia, però diciamo che questo è un fatto molto, molto emblematico, che mostra come il nostro Made in Italy venga trattato in giro per il mondo, e sicuramente bisogna che si difenda, e come, altrimenti la qualità e l'eccellenza verrà annacquata appunto da questi casi che sono davvero clamorosi. Linea alla regia, grazie a Forino, Brivio, Moncalvo, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane, al primo dinton del Gianicolo, Sant'Angelo risponde dindondà. Ecco, riprendiamo dall'Expo, siamo nel padiglione Cibus Italia. Ebbene, parliamo ovviamente di Made in Italy e parliamo di prodotti. Dicevo prima che gli sms che arrivano sono tutti molto molto duri, devo leggere. L'Europa Unita non può e non deve imporre all'Italia di non fare formaggi col latte. Diverse nazioni, Germania in testa, producono formaggi senza latte a discapito della qualità. Necessita che i nostri ministri siano più italiani, corretti e meno affaristi per i loro interessi personali. Questo chiama da Rimini. E poi ancora, nel gelato fresco artigianale, settore di eccellenza italiana, nonché industriale, l'uso di latte disidratato unitamente a latte panna freschi è prassi consolidata da anni per questione di bilanciatura del prodotto finale. E il mercato lo accetta senza obiezioni. E allora... E come vedete, cari radioascoltatori, anche tra di voi ci sono pareri molto, molto discordanti. E ancora, se viene usato latte in polvere, lo si mette in etichetta. Sarà il consumatore a decidere. Beh, mi sembra che questa non sia una cattiva idea. Ricordo, chi vuole intervenire, 800 24 00 24. Bene, abbiamo con noi il presidente della Federa Alimentare, Luigi Scordamaglia. Buongiorno, buongiorno Scordamaglia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Pronto? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Io volevo cominciare da lei perché ultimamente sui giornali, appunto come dicevo prima, si sono letti titoli formaggi senza latte, carne annacquata, cioccolato senza cacao, così l'UE permette di colpire il Made in Italy alimentare. E poi io aggiungo formaggi taroccati addirittura all'Expo nel padiglione della Russia. Ecco, ma siamo veramente, come posso dire, tempestati. Il nostro Made in Italy da torcere da tutto il mondo, da noia. Lei cosa ne pensa? Beh, allora, innanzitutto bisogna evitare l'esagerazione, bisogna evitare la disinformazione. Non è consentito fare formaggio senza latte, non è consentito di fare vino senza uva. Abbiamo degli standard europei e italiani che sono i più alti al mondo. Quindi partiamo da questo presupposto e vediamo di non farci male da soli. Per quanto riguarda poi l'elemento che deve caratterizzare la nostra produzione, sia industriale che artigianale, è ovvio che sia l'alta qualità. È la qualità, e questo è quello che vogliamo, e questo è l'elemento distintivo che fa sì che il food and beverage italiano sia tra il più richiesto al mondo in qualsiasi area del mondo e va perseguita. Bisogna però farlo in maniera decisa e intelligente. Le norme nazionali, quella norma famosa del latte in polvere o qualsiasi altra norma che viene fatta solo su una base legislativa nazionale, oggi in un'organizzazione come quella comunitaria non rappresentano più la soluzione. Le scorciatoie nazionali non servono, le battaglie vanno fatte, come veniva ricordato poco prima, a Bruxelles. Bisogna che l'Italia, che è leader in Europa nella produzione alimentare, alzi la voce, ma seriamente, perché non spieghiamo ai tedeschi come si fanno le auto, bisogna che non ci spieghino come si fanno i formaggi, ma non dobbiamo farlo con delle norme che dopo 15 giorni chiunque può smantellare. Dobbiamo farlo vincendo le battaglie, impegnandoci, facendo in modo che sull'agroalimentare la politica la facciamo noi e non gli altri. Scorciatoie nazionali non servono, ne abbiamo viste altre, abbiamo visto quelle del succo d'arancia, ne abbiamo viste tante. Non basta. Se importiamo così tanta mozzarella dalla Germania, un motivo ci sarà, bisogna non importarla impedendo di farla, semmai a determinate condizioni, anche in Germania. E questa è la battaglia che va vinta, così come va vinta la battaglia sulla trasparenza al consumatore. Se c'è un ingrediente in più va scritto, il consumatore deve essere chiaramente e su tutti i canali, dal retail all'oreca, deve essere in condizioni di poter scegliere quello che compra. Questa è la battaglia che va fatta, tutte le altre sono discussioni un pochino di principio, ma che poi non cambiano la sostanza. Ecco, rimanga con noi perché abbiamo anche Riccardo Deserti, che è direttore generale del Consorzio del Parmigiano Reggiano. A lui però voglio un po', cambiare, questo discorso e andare un po' alla difesa anche delle DOP e le IGP, perché sicuramente continua il discorso del parmesan e continuano anche arrivare da molti paesi dell'est formaggi grana che fanno concorrenza al parmigiano reggiano e al suo disciplinare di fatto. Riccardo, sono veramente ancora molto importanti, è molto importante questa concorrenza sleale che viene fatta. Sì, buongiorno a tutti intanto. Il problema della concorrenza sleale c'è ed è presente, qui mi associo un po' a quanto diceva prima Brivio, in Europa le regole hanno costruito negli ultimi decenni veramente una rete di protezione importante, quindi se parliamo soprattutto di mercato europeo ci sono gli strumenti per difendere ampiamente i produttori e i consumatori dai comportamenti non solo sleali ma anche da quelli proprio delle vere e proprie truffe commerciali. Quello che abbiamo bisogno in Europa è rafforzare l'azione delle autorità degli altri Stati membri, dove di fatto questa rete di protezione è un po' troppo a macchia di leopardo. Diverso è il discorso invece fuori dai confini europei, dove queste regole non sono sempre presenti e dobbiamo passare dall'azione che non può essere solo dei consorzi, ma anche con la politica internazionale, fare degli accordi che permettano di togliere spazio a queste vocazioni, come richiamavi quella del Parmesan. Ecco, ma pare, e mi rivolgo anche a Scordamaglia e poi a Deserti, pare che ancora non si sa bene cosa stia succedendo nella trattativa del TTP, questo trattato di libero scambio, ma diciamo che qua e là sono apparse anche notizie di non più protezione dei marchi di denominazione di origine europea. E cosa può fare l'Italia, Scordamaglia? Allora, quella del TTP è un problema importante, è una grandissima opportunità per un paese come il nostro che esporta verso gli Stati Uniti valore aggiunto, quindi sicuramente va chiuso in maniera intelligente. Negli Stati Uniti, più che le sole basi legali, però torno a dire, vale la comunicazione. È sfuggito a molti che recentemente un giudice federale americano ha condannato la BEX, ogni singolo consumatore americano che ha consumato una nelle ultime settimane, perché è attribuita alla stessa B in maniera misleading, disinformativa nei confronti del consumatore, un'origine tedesca che non c'era. Allora, il 90% dei prodotti che vengono venduti con evocazione di italianità negli Stati Uniti non sono una contraffazione, ma richiamano illegittimamente l'italianità. Bisogna fare una comunicazione e i 40 milioni che il governo col piano Made in Italy insieme a Federalimentare spenderà negli Stati Uniti serviranno proprio a questo, a spiegare al consumatore americano qual è la differenza tra Real Italian e quello che invece è semplicemente un'imitazione, un'evocazione di italianità. E anche la giurisprudenza degli Stati Uniti va in quel senso. Quindi il TTP va chiuso perché è un'opportunità enorme e vanno fatte le battaglie non solo legali, di tutela legale, che sicuramente sono importanti, ma di educazione e comunicazione al consumatore americano. Ecco, in questo quadro di difesa appunto dei nostri prodotti, questo nuovo marchio lanciato dal Ministero delle Politiche Agricole, The Extraordinary Italian Taste, servirà qualcosa, Scordamaglia? Ma all'inizio siamo stati un po' perplessi sul fatto che fosse un nuovo marchio che appunto, come le dice, si aggiungeva quindi ai tanti marchi esistenti. In realtà per come viene utilizzato oggi, cioè ad identificare gli scaffali nelle catene di retail in cui c'è prodotto Real Italian, prodotto davvero ed esportato verso gli Stati Uniti, ha una sua funzione e soprattutto se associato ad importanti risorse di comunicazione credo che sarà una cosa intelligente ed efficace. Deserti, volevo chiederti questo, abbiamo parlato appunto di fuori Europa, che questo è il fatto molto importante di difesa dei nostri prodotti, in particolare del parmigiano reggiano. Ecco, voi come state andando sul mercato americano e inoltre come state difendendo il marchio appunto di denominazione di origine del parmigiano reggiano? Mi fa molto piacere questa domanda proprio perché da pochi giorni siamo tornati dalla missione alla fiera più importante che c'è a New York per tutto il Nord America. Intanto la difesa principale dipende dal fatto che dal 92 Parmigiano Reggiano è registrato negli Stati Uniti come marchio di certificazione e quindi sul nome Parmigiano Reggiano eseguiamo protezione. Solo nell'ultimo anno siamo riusciti a far ritirare due domande di registrazioni di marchi evocativi, quindi simil, parma, qualcosa. Il problema, qui mi associo a quello che diceva Scordamaglia, è il fatto di fare anche comunicazione positiva. L'export di Parmigiano Reggiano sta crescendo, abbiamo avuto, andando a questa fiera, altre grosse importanti richieste dalle catene distributive che cercano il prodotto originale certificato, e questo avviene perché si riesce a comunicare che il prodotto originale ha delle differenze e il consumatore lo richiede. Quello, quindi, per cercare di chiudere, non tiriamoci un po' la zappa sui piedi, nel senso, pensando che finché non ci sarà una protezione maggiore di Parmesan non si riuscirà a esportare. Il Made in Italy ha un potenziale enorme che già sta esprimendo, se lavoreremo bene di concerto con anche le istituzioni europee riusciremo a togliere delle confusioni che danneggiano non soltanto i produttori italiani ma anche i consumatori. Ci sono parmesan negli Stati Uniti pieni di bandierine italiane, e chiaramente questo porta confusione e fa danno anche ai consumatori americani, che pensano di comprare una cosa per l'altra. Ci sono tantissimi parmesan già oggi che non fanno pensare in nessun modo che l'origine sia italiana. Questa è la via della chiarezza che ci serve. Ma io devo anche leggere quello che succede qua sugli SMS. Oggi è una domenica molto calda, probabilmente la gente non telefona ma manda SMS, forse costa meno fatica. Ma devo dire che tutti sono concordi e vedo c'è una decisione proprio nel dire. Ma perché questa gran parte delle decisioni che stanno incidendo negativamente nella qualità di vita dei prodotti finiscono per agevolare in particolare Germania, Svizzera e paesi dell'est? Scordamaglia, è così? Da cosa vuole che le dica? Perché le potrei rispondere con una domanda: perché stiamo facendo verso la Russia una politica che avvantaggia il resto d'Europa e svantaggia l'agroalimentare italiano? Perché non facciamo accordi bilaterali come gli accordi i russi stessi ci hanno proposto per il riavvio delle esportazioni dei nostri DOP e IGP? Perché l'Europa è condizionata da paesi, solo l'Italia. Allora purtroppo l'Italia, almeno in pochi settori come quello agroalimentare, è tornare a contare. Bene, grazie, la ringrazio. Grazie a Luigi Scordamaglia. Torno Deserti, anche a te faccio questa domanda. Credo che in aggiunta ci siano anche degli interessi collaterali. Non bisogna nascondere che questo, che è la nostra grande arma, che è quella della qualità, che abbiamo costruito in decenni, mi sento anche di dire che se in Europa ci sono le DOP, come ricordava Brivio, e le DOP sono nate in Europa proprio sulla base delle leggi italiane, prima delle DOC e dei marchi di origine, quindi abbiamo esportato il modello. Questo modello, in una concorrenza allargata, vede un po' dei concorrenti proprio nel centro nord Europa, e quindi grandi paesi produttori alimentari per dimensioni cercano e hanno l'interesse di togliere questa prerogativa italiana, che poi ci dà ancora grandi potenzialità, e quindi è veramente un assetto un po' di interessi geopolitici, e lì bisogna giocare davvero tutte le carte che l'Italia può giocare in Europa, portando l'agroalimentare in una posizione prioritaria rispetto ad altri interessi geopolitici. Bene, grazie a Deserti, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Eccoci di nuovo, riprendiamo dall'Expo, dove siamo nel padiglione di Cibo 6 Italia, dove ci sono tutti i prodotti DOP e IGP ben elencati, quindi sono tanti, veramente siamo i leader europei di questi prodotti d'eccellenza. E qui mi si permetta magari una mia battuta molto personale: la comunità europea, l'Unione Europea sicuramente fa di tutto per metterci il bastone tra le ruote, hanno ragione moltissimi, moltissimi radioascoltatori. E cui prodest? Io non so cui prodest, ecco, qui è molto difficile. La Germania comanda anche qui, sicuramente sì, nel campo del latte. Bene, noi non dimentichiamo che importiamo tanto di quel latte dalla Germania che Dio solo lo sa, quindi molti formaggi è noto, sono fatti con latte che arriva dalla Germania, e anche tanti altri prodotti sono fatti con prodotti di importazione. Non è che dobbiamo fare sempre le verginelle, questo è vero. E c'è un radioascoltatore addirittura che mi dice: faccio una trasmissione sul TTIP a difesa dei nostri prodotti, e mi ringrazia anche. Bene, quando si saprà qualcosa, caro amico radioascoltatore, probabilmente si può fare, non si sa ancora niente, è un mistero di chi stia trattando, di che cosa si stia trattando. Pare che sicuramente, dalle prime così notizie che erano uscite un po' di tempo fa, che l'Italia non è che fosse molto molto avvantaggiate, i prodotti di qualità non verrebbero molto avvantaggiati, soprattutto perché il trattato di libero scambio prevederebbe anche molte normative degli Stati Uniti essere recepite anche dal resto del mondo. Bene, comunque dicevo, sono tanti i problemi. Abbiamo sentito ora una canzone, Rossetto e Cioccolato. Bene, io ho messo Cioccolato perché? Perché un po' di anni fa, anche qui siamo stati, diciamo, non certamente privilegiati quando è stata introdotta la permissività di mettere il 5% di aromi vegetali nel cioccolato, quindi non cioccolato puro. E la nostra azienda, diciamo, la nostra azienda alimentare, quella di qualità che produce cioccolato, è 100% cacao e burro di cacao, e non mette nient'altro. Quindi sicuramente si va sempre in questo modo in discesa, ma anche i nostri salumi, a quanto pare, e qui ancora una volta dico quanto pare, perché si leggono qua e là delle notizie, ma come ci ha detto prima Brivio, insomma, bisogna andare a verificare se già sono dei provvedimenti in essere, se sono già stati recepiti, se c'è ancora discussione. E sui salumi lo voglio chiedere a Corradino Marconi, che è presidente del Consorzio della Mortadella. Perché? Perché la mortadella è uno di questi che potrebbe essere avvantaggiato o svantaggiato, non lo so, perché c'è un, diciamo, su un articolo ho letto che c'è scritto: consente anche per alcune categorie di carne la possibilità di non indicare l'aggiunta d'acqua fino al 5%, ma per alcuni prodotti tale indicazione, e questi prodotti sono wurstel e la mortadella, tale indicazione può essere addirittura elusa e potrebbero essere esclusi dagli obblighi di indicazione della quantità di acqua. Buongiorno Marconi. Buongiorno a tutti. Sono stato chiaro sulla domanda? Ottimo, no, è chiarissima. Allora, e com'è la situazione? Com'è la verità? La verità è questa, che bisogna tornare un po' indietro, bisogna capire e far capire ai consumatori perché già dai tempi dei Romani si metteva non l'acqua ma il ghiaccio, perché adesso noi parliamo di acqua, ma nel caso della mortadella era ghiaccio, perché la mortadella, essendo un prodotto molto industriale, già dai tempi dei Romani, come facevano a raffreddare l'impasto per poter amalgamare tutti gli ingredienti? Buttavano del ghiaccio dentro l'impasto. Questa tecnica è durata fino ad oggi, perché ancora oggi alcuni artigiani adoperano questa tecnica, però noi non più. Cioè, chi fa prodotti come la mortadella oggi in impianti industriali non ha più bisogno di metterci il ghiaccio, perché comunque il freddo lo possiamo riprodurre in altro modo. Quindi cosa si fa? Si adopera il ghiaccio, se si adopera, molte aziende lo fanno, perché? Perché cercano non più di raffreddare l'impasto, ma di rendere l'impasto più morbido. Perché i due motivi per cui già nell'antichità si adoperava il ghiaccio era per abbassare la temperatura dell'impasto, ma anche per avere un impasto più vellutato, un po' più morbido. Per cui è vero, come dicevi Davide, non c'è nella normativa e neanche nel disciplinare della mortadella un'indicazione sul livello di acqua, però c'è poi un rapporto molto importante, che è umidità proteine, che obbliga poi le imprese, se vogliono rimanere all'interno del disciplinare, quindi poter fregiarsi del marchio IGP, di mantenere un certo tenore di acqua, che oggi può viaggiare, ghiaccio acqua, che può viaggiare intorno all'1-2%. Però aggiungo una cosa, che durante il processo di stufatura, perché la mortadella viene stufata, la mortadella poi perde l'8% di calopeso, e quindi di fatto di acqua ne rimane molto poca. Questa è la verità. Ma Marconi, non è forse questa disposizione per avvantaggiare i paesi che stanno taroccando molto la mortadella italiana? Ma può essere, perché comunque sia, ripeto, è chiaro che se tu vuoi fare una mortadella e non hai un disciplinare come abbiamo noi in Italia, tu metti dentro anche 10 litri d'acqua e sai che una parte, che è più o meno l'8% di quello che metti, viene evaporata, ti rimane comunque dell'acqua nell'impasto. Questo sì, però noi in Italia questo non ce lo possiamo permettere, perché comunque sia il rapporto, come ti dicevo prima, di umidità e proteine, che è uno dei quattro rapporti fondamentali per poter fregiarsi il VGP, ti obbliga poi a mantenere una percentuale massima di acqua intorno al 2%. Ecco, quali sono i paesi concorrenti per la produzione di mortadella dell'Italia, sia in Europa che in giro per il mondo? Perché mi pare, questo è, diciamo, è fuori dalla comunità, ma in Sud America ci sia molta mortadella che viene spacciata per italiana, in realtà non è per niente italiana. Beh, allora, in Europa gli spagnoli sono i grandissimi produttori di mortadella, quindi sono i più grandi produttori di mortadella. Francia e Germania, pochissima mortadella. E poi tutto Sud America. Voi pensate che in Brasile la mortadella è prodotto nazionale, è ritenuto un prodotto nazionale, e loro la chiamano mortadella Bologna. E noi italiani non possiamo nemmeno permetterci di difendere il nostro marchio, perché loro l'hanno brevettato prima. E quindi, non avendo un rapporto, non accogliendo il nostro disciplinare, loro possono permettersi di chiamarla mortadella e noi non possiamo farci niente. Beh, sai, ci sono tantissimi prodotti, arriviamo all'Italian Sounding di cui abbiamo discusso tante volte. Quindi la Spagna è il maggior produttore rispetto a noi, sì, di mortadella, è così? Sì, è un produttore enorme di mortadella. Di mortadella di medio-basso livello, tra l'altro. Ecco, ma noi riusciamo ma a anche ascoltare... ma anche gli americani sono dei grandi produttori, eh. In America, dove la chiamano Balone, la mortadella la chiamano Balone da 30 anni almeno, loro sono dei grandi difensori del prodotto mortadella, ritengono che siano stati loro a produrre per primi questo prodotto. Beh, anche la pizza ritengono che siano stati loro. Ma volevo farti un'ultimissima domanda, è questa. Ma noi riusciamo a esportare all'estero mortadella? Questo è un tema importante che sottolinei. Noi non siamo stati mai bravi a portare fuori la mortadella, un po' perché è sempre stato un prodotto molto povero, e quindi di fatto noi italiani, che abbiamo un livello di qualità superiore, abbiamo sempre fatto molta fatica a combattere gli spagnoli, che invece vendono mortadella con dei prezzi di cessione molto bassi, diciamo proprio la metà di quelli italiani. Quindi di fatto gli italiani hanno fatto una gran fatica. Adesso noi in Italia stiamo veramente facendo un grande lavoro come consorzio Mortadella Bologna GP per riqualificare questo prodotto, e stiamo lentamente conquistando quote di mercato e alzando sempre di più il nostro prezzo medio. Questo ci porta da una parte a sviluppare prodotti italiani in Italia, ma purtroppo ci porta a dei problemi all'estero. Credo che il futuro sarà quello di cominciare a investire anche per la riqualificazione, almeno in Europa, di questo prodotto. Bene, grazie a Corradino Marconi. Voglio leggere l'ultimo SMS. Come può arrivare il pecorino sardo trasportato in Olanda? Qui etichettato pecorino olandese e spedito in Grecia con tale nomenclatura? Non è frodare la pastorizia sarda? Beh, caro Vittorio, se è così hai perfettamente ragione. Ma qui chiudiamo questa puntata da Alex Po, da Cibus e Italia. Io vi auguro... con le campane al primo dindon del Gianicolo, Sant'Angelo risponde di nonna. Domenica è sempre domenica.